GR24, il sole 24 ore. Berlusconi, che ci importa dello spread? Monti, gli italiani non sono sprovveduti. Confindustria peggiora la stima del PIL nel 2013. Servizio sanitario napoletano, chi ha di più contribuisca di più. Corruzione nella pubblica amministrazione, 11 arresti al Ministero dell'Agricoltura. Constateranno che l'Italia non è priva di governo, esiste un governo con i suoi poteri fino a quando un nuovo governo arriverà. Tutto quello che si è inventato sullo spread è un vero imbroglio. Quindi secondo lei... è che si è usato lo spread per cercare di abbattere una maggioranza votata dagli italiani e di mandare a casa un governo facendogli perdere la maggioranza in Parlamento. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchia. Monti contro Berlusconi. Lo scontro politico si riversa ancora una volta in televisione in pochi minuti e di prima mattina. Uno Mattina intervista Mario Monti e su Canale 5 parla Silvio Berlusconi. Uno contro l'altro in una sorta di faccia a faccia a distanza. E allora iniziamo proprio da Mario Monti, lo facciamo con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Così Adriana, ormai è lotta aperta, il Presidente del Consiglio Mario Monti risponde alle accuse di Silvio Berlusconi ribaltandole una ad una. Riguardo al picco dello spread e alle borse negative, il Premier risponde di non credere a complotti occulti, anche se sottolinea che ci sono soggetti grandi e piccoli che cercano di fare i loro interessi, spesso senza scrupoli. È falso che lo spread dipenda dai governi, non dipenda dai governi. Sulla mancata crescita poi il professore si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Dovevano pensarci i governi precedenti. 13 mesi fa l'Italia si è trovata in condizioni finanziarie molto difficili, oggi possiamo essere promossi, il costo è che non c'è stata crescita. Ma per salvare l'Italia da un destino greco, prosegue Monti, e farla crescere bisognava pensarci qualche mese prima. Riguardo alle prossime elezioni, Monti mette in guardia dal pericolo del populismo, attenzione a ipersemplificare le cose, a promettere ciò che non può essere mantenuto, non bisogna trattare i cittadini da sciocchi o sprovveduti. Il professore poi non si sbilancia sul suo futuro politico, mentre si lascia andare ad una battuta: le colpe dei nonni ricadono sui nipoti, dice Monti, il mio all'asilo lo chiamano spread. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Come avete sentito, Silvio Berlusconi a Canale 5 invece ha sminuito il peso dello spread. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Attacca lo spread, i mercati, l'Europa, il governo, dei tecnici, un Berlusconi più che mai battagliero, quello intervistato questa mattina da Maurizio Belpietro. Il Cavaliere torna ad attaccare questo indicatore economico all'indomani del crollo dei mercati italiani, che hanno reagito ieri con un pesante ribasso all'annuncio delle dimissioni di Mario Monti e del ritorno in campo del Cavaliere. Una clava usata a fini politici, aveva detto ieri Berlusconi, un imbroglio, una invenzione, ribadisce oggi. Poi l'affondo nei confronti di Monti, con lui l'economia è peggiorata, il PIL è sceso del 2%, tutti gli indicatori sono andati giù. Quanto al suo partito, il Cavaliere evoca la rottamazione, poi corregge il TIVA. Belpietro dice che il PDL cambierà pelle, soprattutto parlamentari, e che solo il 10% degli attuali verrà ricandidato, mentre il 50% saranno persone provenienti dal mondo del lavoro, un'affermazione che deve aver destato qualche allarme tra le truppe parlamentari del PDL, tant'è che in una nota Palazzo Grazioli precisa, pare evidente che non sarà solo il 10% dei parlamentari uscenti del PDL ad essere ricandidato, ma tutti quei deputati e senatori che provengono dalla trincea del lavoro saranno ricompresi in quella quota del 50% dei provenienti dal mondo del lavoro. In pratica, a venire rottamati sarebbero unicamente quei parlamentari che non hanno una dimensione professionale autonoma e che sono solamente dei professionisti della politica. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ora sentiamo invece da Sergio Nava quali sono le reazioni europee. Lo facciamo qui in studio. Buongiorno Sergio. Sì, buongiorno. Si propaga ancora in Europa l'onda sismica provocata dalla crisi di governo in Italia e Silvio Berlusconi è nuovamente nell'occhio del ciclone a Bruxelles. Questa volta la stoccata arriva dalla famiglia dei popolari europei, di cui lo stesso PDL fa parte. Il capogruppo all'Europarlamento Josef Daul ha affermato che l'Europa è molto preoccupata per gli avvenimenti in Italia. Per l'Europa e per l'economia italiana non ci possiamo aspettare una politica spettacolo. Sempre per Daul, far cadere il governo di Mario Monti è stato un grave errore. Non abbiamo bisogno bisogno di momenti di turbolenza. L'Europa combatte il populismo, ha ricordato Daula a Strasburgo, affiancato dal capogruppo del PDL all'Europarlamento Mario Mauro, che ha preso nettamente le distanze da Berlusconi. A un momento di follia vero e proprio segue un lungo periodo di assunzione di responsabilità per far capire che Monti è necessario anche domani, ha dichiarato Mario Mauro. Un'altra tegola dunque per il candidato premier del PDL, autoproclamatosi stamattina come uno dei due o tre leader europei più autorevoli, che nel giro di soli tre giorni si è visto fare terra bruciata in Europa, non solo nel centro-sinistra ma all'interno dello stesso centro-destra europeo. La Commissione europea oggi ha aggiunto un altro tassello, notando come gli spread elevati mettono in difficoltà le imprese e impediscono il buon funzionamento del mercato interno. E c'è anche un'altra notizia non positiva per il nostro paese: l'avvocato della Corte di Giustizia europea ha chiesto oggi che il massimo tribunale comunitario respinga il ricorso presentato da Roma e Madrid contro la cooperazione rafforzata sul brevetto unico, che prevede un regime di trilinguismo. Ieri, lo ricordiamo, c'è stato il via libera dei ministri europei della cooperazione senza Italia e Spagna, e poco fa anche l'Europarlamento ha dato il suo via libera al brevetto comunitario. È tutto. Il punto di Stefano Folli. Ora non ci sono più dubbi: Berlusconi farà la sua campagna contro l'Europa, che lui vede come nemica, perché è quella dello spread e dei mercati. E infatti, come ha detto stamane, di questo spread non ce ne importa nulla. Insomma, da gran populista insegue i voti di tutti coloro che hanno motivi di risentimento e di disagio e non hanno alcuna idea della logica dei tassi di interesse. È l'anti-Europa per eccellenza, e pazienza che a incarnare questa posizione un po' alla Perone, un po' alla Le Pen, sia un uomo che ha fatto per tre volte il Presidente del Consiglio ed è stato un autorevole rappresentante del Partito Popolare Europeo, lo stesso della Merkel. In ogni caso, le parole di Berlusconi fanno chiarezza e mettono al centro della scena, in antitesi, Mario Monti, che rappresenta l'opposto, la credibilità europea, l'agenda di chi nell'Unione vuole starci con serietà, pensando alle finanze pubbliche, rispettando gli impegni e facendosi rispettare. Insomma, la campagna elettorale si giocherà su questo binomio Monti-Berlusconi, Bersani permettendo. E ora un aggiornamento dai mercati finanziari con Valentina Furlanetto. Buongiorno. Buongiorno nuovamente a te Adriana e agli ascoltatori. Giornata positiva oggi per le borse, che sembrano aver archiviato l'addio di Mario Monti da Presidente del Consiglio. Il FTSE MIB guadagna lo 0,8%, FTSE All Share più 0,73%. Bene anche gli altri mercati dopo l'asta dei bonus spagnoli: Madrid positiva anche Parigi più 0,5%, Francoforte più 0,5%. Un po' tutti i mercati guadagnano mezzo punto percentuale, con l'eccezione di Londra che guadagna lo 0,24%. Fra i titoli a maggiore capitalizzazione a Piazza Affari segnaliamo il rialzo di Lottomatica più 4,06, bene anche Autogrill più 3,29, A2A più 2,15%. Negativi un po' tutti, contrastati tutti i bancari, che ieri avevano sofferto molto dopo la chiusura, lo ricordiamo, di Piazza Affari a meno 2,2, ma il peggiore è Fiat Industrial, meno 0,79. Spread in calo quest'oggi, mentre l'euro sul dollaro è quotato a 1,2986. Ed è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto. Il decreto sul riordino delle province non sarà convertito, lo ha deciso ieri sera la Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il decreto che riorganizzava le province italiane non sarà convertito in legge. Troppi emendamenti, impossibile presentarsi in aula oggi pomeriggio come stabiliva il calendario. Dunque, nulla di fatto. Vanificato lo sforzo per approvare il provvedimento, commenta il ministro della Pubblica Amministrazione Patroni Griffi. Si perde un'importante possibilità, dice il presidente dell'Unione delle Province Italiane Antonio Saitta. Resta tutto come prima. L'accorpamento per me era un modo per rimettere in discussione anche l'organizzazione dello Stato, e allora avremmo messo in moto un processo virtuoso. A questo punto sarà necessario escogitare una norma che coordini le disposizioni sulle province previste dal decreto Salva Italia e dalla Spending Review, ma sulla possibilità che questa norma sia inserita nella legge di stabilità Patroni Griffi non risponde. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Confindustria peggiora la stima del PIL nel 2013 con una contrazione dell'1,1% e indica che solo nel 2014 è prevista una modesta ripresa più 0,6. Migliora invece la stima 2012 da -2,4 a -2,1%. Il paese è ancora in recessione e l'incertezza dell'esito delle elezioni offusca l'orizzonte, si fa notare. Insostenibile la pressione fiscale che nel 2014 toccherà il 53,9% del PIL. Preoccupanti le condizioni del mercato del lavoro, -1,5 milioni di posti tra il 2007 e il terzo trimestre del 2013, ma a metà 2011 si sono già persi 1,1 milioni di posti di lavoro. Poco fa, intervenendo e concludendo il convegno del Centro Sud di Confindustria, il presidente degli industriali Giorgio Squinzi ha detto: la situazione economica in cui versa il paese è seria, ma sono convinto che il paese ha le risorse e le potenzialità per superare le difficoltà che stiamo vivendo e ritrovare il cammino della crescita. Giorgio Napolitano interviene sul Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna chiedere ai cittadini che in ragione delle loro capacità di reddito sono in condizione di dare maggiori contributi, di darli per finanziare il sistema sanitario pubblico, ha spiegato Napolitano, che ha aggiunto: il sistema deve essere pubblico ma affidarsi anche al privato, che però deve sottostare a regole più severe e a controlli più oculati. Dopo il lunedì nero che ha causato disagi per 700.000 pendolari, nuovi ritardi e soppressioni questa mattina sulle linee locali lombarde gestite da Trenord. L'azienda ribadisce le proprie scuse e assicura che la situazione si va normalizzando, ma i sindacati chiedono che cada qualche testa. Il caos è stato causato dall'adozione del nuovo sistema informatico in concomitanza con l'introduzione del nuovo orario invernale e del nuovo contratto aziendale. Chi ha sbagliato paghi, dice Adriano Coscia, segretario regionale dell'Orsa, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Purtroppo crediamo che i problemi proseguono anche nei prossimi giorni. Questo sistema andava monitorato, andava affiancato con la vecchia gestione in modo da verificare se si riscontravano dei problemi o delle criticità. È stato fatto un errore grossolano e chi ha deciso questa cosa deve assumersi la responsabilità, e quindi, oltre a fare la conferenza stampa e dire che abbiamo sbagliato, devono esserci anche degli atti conseguenziali. Come i lavoratori sbagliano e l'azienda usa il sistema sanzionatorio con la massima rigidità, non vedo per chi commette questo errore, insomma, possa continuare ad essere al suo posto. Ed è giunta poco fa la notizia in redazione che la Guardia di Finanza ha eseguito poco fa un ordine di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Giuseppe Biesuz, amministratore delegato di Trenord. Le accuse, a quanto si apprende però, riguardano un'ipotesi di bancarotta della società Urban Screen, di cui Biesuz è stato amministratore delegato fino al 2008, e non riguardano Trenord. E ora, in chiusura di questa prima parte del nostro notiziario, il calcio con Carlo Genta. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Si è chiusa ieri sera con altri due posticipi la 16ª giornata di Serie A. Una giornata che ha confermato la crisi che continua della Sampdoria, sconfitta 2-0 in casa dall'Udinese, sempre nel segno di Natale, a segno anche Danilo per i friulani. C'è stato poi lo 0-0 di Bologna tra il Bologna e la Lazio, uno 0-0 che lascia comunque la Lazio da sola al quarto posto della classifica, una classifica che resta comandata dalla Juventus con 38 punti, Inter 34, Napoli 33 e Lazio appunto da sola a 30 punti. Oggi ancora calcio, si torna a parlare di Coppa Italia, questa sera in campo alle 21 Roma-Atalanta, e si rivedrà tra i giallorossi dall'inizio Daniele De Rossi. Certo, non è la collocazione ideale la Coppa Italia per un giocatore così importante, ma questo è ciò che Zeman ha intenzione di concedergli. Linea di nuovo allo studio. E ora ci occupiamo anzitutto di corruzione, arrestati funzionari del Ministero delle Politiche Agricole. C'è anche Giuseppe Ambrosio, attuale capo della segreteria del sottosegretario Braga, in passato a capo di gabinetto dei ministri Zaia e Galan, tra i destinatari dei provvedimenti della Procura di Roma che la Guardia di Finanza ha eseguito nel mirino funzionari pubblici e dirigenti del Ministero delle Politiche Agricole ed imprenditori. Complessivamente 11 gli arresti, 6 in carcere, 5 ai domiciliari, 37 le persone indagate. In manette anche la moglie di Ambrosio. Il reato ipotizzato dai magistrati e corruzione turbativa d'asta, il tenente colonnello Gavino Puzzu. Queste persone si erano raccordate praticamente tra loro per spartirsi circa 32 milioni di euro di finanziamenti praticamente pubblici erogati dal Ministero delle Politiche Agricole a fronte delle quali i pubblici funzionari hanno percepito a vario titolo denaro o altre utilità, come ad esempio alcuni viaggi pagati in Francia, ovvero negli Stati Uniti. La procura ha anche disposto il sequestro di beni per un valore di 22 milioni di euro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito perquisizioni e sequestri nei confronti di Parmalat, Gruppo Lactalis Italia, PricewaterhouseCoopers, Mediobanca, Banca Credito Finanziario e Studio Legale d'Urso, Gatti e Bianchi. Il reato per cui si procede è appropriazione indebita con l'aggravante dell'abuso di autorità o relazioni d'ufficio. Svolta nell'indagine sulle spese della Regione Piemonte, nata sulla scia degli scandali nel Lazio, quattro consiglieri regionali, tutti capogruppo, sono indagati con l'accusa di peculato. La Guardia di Finanza ha raggiunto per prima l'abitazione del consigliere Michele Giovine per consegnargli un avviso di garanzia. Contemporaneamente sono stati consegnati provvedimenti ad Andrea Stara di Insieme per Bresso, Maurizio Lupi Verdi Verdi e Leonora Artesio per la Federazione Sinistra Europea. Una Molotov accesa è stata trovata di fronte a una filiale dell'Unicredit all'interno del Palazzo della Cassazione a Roma. La bottiglia, trovata da un impiegato che l'ha poi spenta ed ha avvisato la polizia, conteneva alcol e aveva ancora lo stoppino acceso. È un restauro d'eccellenza quello che sta interessando in questi mesi il trittico con le storie della passione, capolavoro in alabastro del XV secolo, che sarà presentato il prossimo anno a Napoli nella mostra Restituzioni 2013, tesori d'arte restaurati al Museo di Capodimonte. L'intervento sul trittico è stato sostenuto da Intesa San Paolo nell'ambito della 16ª edizione di Restituzioni, il programma biennale di restauri d'opere d'arte. Andrea Massari, responsabile dei beni archeologici e storico-artistici di Intesa San Paolo, i nostri microfoni. Si tratta di un trittico in alabastro, a partire dal Museo di Capodimonte dall'inizio dell'Ottocento e proviene dall'Inghilterra, perché in Inghilterra già nel 300 si era diffuso da questa l'arte di scolpire l'alabastro. È una delle opere più importanti che rientrano nella 16ª edizione di Restituzioni. Restituzioni è un programma di restauri che Intesa San Paolo coordina, organizza, gestisce e soprattutto ovviamente sovvenziona, avviata ancora fin dal 1989 ed è forse una delle attività di maggiore tradizione nel nostro impegno nel campo della cultura e dell'arte. Una responsabilità di una grande banca, di una impresa finanziaria come la nostra, in qualche modo intervenire non soltanto su quella che è il sostegno all'economia del paese, ma anche al sostegno a quello che definiamo un po' lo sviluppo e la crescita culturale e civile di questa nostra nazione. E ora in chiusura parliamo della ricerca in Italia. Due riviste molto importanti nel panorama mondiale dell'informazione scientifica sono Nature e Scientific American, hanno pubblicato un rapporto che contiene molti indicatori su come funziona la ricerca nelle 40 economie mondiali più sviluppate. Dove le cose vanno bene si registra un dato importante, arrivano scienziati da tutto il mondo e lavorano nei laboratori di quel paese. Per noi Italia le cose sono malmesse, siamo collocati al penultimo posto, sotto di noi ci sta l'India. Dov'è il problema? Si viene poco dalle nostre parti perché si fa ricerca di basso profilo rispetto a tanti altri paesi? No, assolutamente. Qui si fa ottima ricerca, non in tutte le aree ovviamente, ma in un buon numero sì. Certo, se continuiamo a investire sempre meno, beh, è ovvio che non diminuirà la scarsissima immigrazione ed è qui il problema. Offriamo stipendi troppo bassi e anche fondi a disposizione lontani da quanto possono essere altrove. Non solo, le procedure di reclutamento sono imbrigliate da meccanismi burocratici che penalizzano fortemente la qualità. La scarsa presenza di ricercatori stranieri, attenzione, è un problema ben più grave della fuga dei cervelli. Va bene che i giovani vadano in giro per il mondo a fare esperienza, però poi devono trovare conveniente tornare a casa e questo naturalmente deve valere, come abbiamo detto, per gli stranieri che vogliono fare ricerca in Italia. Federico Perocchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia a Gianmarco Ferronato. Un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. È partito con l'anteprima dell'atteso Hitchcock di Sacha Gervasi, il Courmayeur Noirin Festival. Cosa vedremo in questi giorni? Ce lo racconta il direttore Giorgio Gosetti. Credo che sia un programma, quello cinematografico di quest'anno, che va proprio a toccare la radice per cui si fa un festival, cioè scoprire talenti nuovi. Fare attenzione al mondo di casa, è bello avere 3 film italiani nel concorso e poi fra documentari e film fuori concorso altre apparizioni italiane. Dedichiamo una giornata apposta a questo, l'abbiamo chiamato Vedo Nera, per domandarci se il cinema e la letteratura italiana oggi possono collaborare a raccontarci questo paese. E poi andremo invece alla scoperta dei mondi fantastici, pensare a Tim Burton che viene qui con Frankenweenie, pensare a Robert Redford che porta qui la memoria storica degli Stati Uniti col suo ultimo film La regola del silenzio, pensare a Gabriele Salvatores che viene qui a mostrare le prime immagini di educazione siberiana, ci dà veramente il senso dell'apertura del mondo. Non solo cinema ma anche letteratura al Noirin Festival, primo libro presentato, un romanzo tra giallo e montagna, dall'esperto di cime Andrea Gennari Daneri. Mangart, un libro che per molti è già pronto per diventare film. Sì, alla fine è un film, forse perché non ho diciamo l'abitudine a leggere tanti romanzi gialli italiani, ma ho abitudine a leggere romanzi americani che sono tante volte poi destinati al mondo del movie. Sono stato credo influenzato da questo e quindi penso che sia quasi più un film che non un romanzo. Sono 30 anni che bene o male sono sulle montagne italiane e del mondo, quindi diciamo conosco bene l'ambientazione, con la montagna, con la neve, con tutto ciò che viene dal pericolo eventuale delle valanghe, di quello che può essere il gelo, no? Perché se si parla di montagna invernale, credo che il romanzo abbia acquistato parecchio in più insomma rispetto ad altre ambientazioni possibili. Spostare il Festival di Sanremo? La notizia comincia a serpeggiare in ambienti Rai e viene rilanciata dai social network. Dopo le polemiche per l'intervento di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, si starebbe pensando di spostare il festival previsto per la metà di febbraio al mese di marzo, dopo le elezioni. Anche l'orchestra di Franco Bagutti si è candidata al prossimo festival. L'orchestra di Liscio, fondata a Piacenza 40 anni fa, ha presentato 2 brani ispirati al dramma del terremoto in Emilia e alla forza silenziosa degli emiliani. L'edicola di Fiorello è tornata dopo qualche mese di assenza. Il microprogramma nato per il web comincia a trovare diffusione anche sulla televisione tradizionale. Ora arriva su Sky 1. Ne ha parlato lo stesso Fiorello questa mattina proprio nella sua edicola Fiore. Dopo tutti gli amici che ci retweetano e ci fanno, si è aggiunto anche Sky. Applausi a Sky! Certo, te credo. Posso dire una cosa? Te credo, è libera, è gratis. Ricordiamo, l'edicola è libera. Chi la vuole la prende. Lo manda in onda, se Tele Tuscolo la vuole mandare o Rai 1, ma Rai 1 non ce la manda in onda, perché come fa a mandare in onda sto primo piano con gli U? E per il GR Spettacoli è tutto, da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.